il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Decine di canali televisivi, dettagli tecnici da tutte le angolazioni, telecamere, dichiarazioni rubate, labiali letti, notizie che vanno fino al mondo del gossip tra donne bellissime e tatuaggi. Insomma, questo è il calcio di oggi. Ma anche tra le decine di telecamere che spiano qualsiasi cosa accada nel mondo del calcio, non c'è telecamera in grado di guardare nel profondo del cuore di un uomo. È difficile descrivere, se non l'hai provata, la gioia per un gol fatto, la delusione per un gol subito, per una partita persa. E ecco perché noi amiamo pescare i protagonisti delle nostre storie nel calcio di qualche anno fa, quando non c'era quel tipo di ossessione, l'ossessione del danaro, del successo, e però c'erano evidentemente anche altri risvolti dell'anima, anche molto profondi. Una di queste storie la raccontiamo anche grazie a un ascoltatore che si chiama Gianfranco Barco, che ci ha chiesto di parlare del grande Agostino Di Bartolomei, il capitano della Roma, dello scudetto storico, quello dell'83. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno Enrico, che bello sentirti. Ma non sei romano? No, io non sono romano e non sono romanista, anche se ho simpatie per quei colori. Sì. Io sono di Vicenza e, come dire, devo tifare il mio Lanerossi e quindi, certo, ho superato tutte le soglie del dolore. Come? Beh, va bene, cioè, tutte le squadre hanno le loro soglie del dolore. Perché Agostino Di Bartolomei? È una persona che ho tenuto sempre nel cuore, così, sì, un po' per contrasti, perché, beh, intanto noi siamo della generazione degli scarpini neri, no? Certo. Quelli che si giocava, quindi, sì, voglio dire, già questa è una linea abbastanza demarcante. Mi piace, no, questa definizione, la generazione degli scarpini neri. Ci scarpini sto. Neri, ci odore sto, di olio sto. Di canfora negli spogliatoi, tutte queste cose qui. E poi mi piacevano i calciatori che avevano personalità, insomma, che erano uomini in campo prima ancora che semplice giocatore di calcio. Certo. Ecco, Agostino Di Bartolomei era una persona molto riservata ed era una persona equilibrata. Io ho avuto la sensazione, non l'ho mai conosciuto ovviamente, ho avuto la sensazione che lui avesse lasciato un ottimo ricordo sia a Milano che a Roma, dove lui ha giocato, sì, diciamo, i momenti di punta della sua carriera. Ha fatto una scelta veramente in contrasto con il suo carattere molto riservato, molto pacato, molto stabile, a meno dal punto di vista mio, che ero al di là del monitor. Certo, certo. E questa cosa qua mi ha sempre disturbato, mi ha lasciato un po' di un velo di commozione, diciamo, nel ricordo, certo, di questo ragazzo, che secondo me era una persona veramente buona e la vita a volte non è facilissima da portarsi sulle spalle, ecco, tutto qua. È vero. Grazie Gianfranco e grazie Enrico. Buon ascolto. Grazie a te, della compagnia che ci fai sempre, ti ascolto sempre volentieri. Grazie, buon lavoro, grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Agostino Di Bartolomei, ex calciatore della Roma e del Milan, si è ucciso questa mattina sparandosi un colpo di pistola nella sua villa di San Marco di Castellabate, in provincia di Salerno. Eh sì. Partiamo dalla fine della storia. È un inizio insolito, perché Agostino Di Bartolomei si spara un colpo al cuore il 30 maggio 1994. È un suicidio che lascia parenti e amici sconcertati. Gianfranco Barco, il nostro ascoltatore, ha centrato l'argomento prima, cioè nessuno si aspettava una cosa del genere. La domanda è che tutti si fanno in questi casi è questa: perché? E per rispondere a questa domanda iniziamo un viaggio che ci porta indietro di 39 anni in un quartiere della periferia di Roma. Il nostro viaggio inizia tra le case popolari di Tormarancia, alla periferia di Roma, lontano dalla Roma dei monumenti, dai bar affollati di turisti, lontano dalle immagini da cartolina di una città come Roma, che vive in periferia delle realtà molto diverse e spesso difficili. Tra questi palazzi ci sono i bambini che giocano a calcio per strada, all'oratorio, e ogni tanto capita che qualcuno di questi sia più bravo degli altri, e Agostino è uno di questi. Lui nasconde la palla tra i piedi, la passa ai compagni, la fa girare con precisione, insomma ha la stoffa del campione, è un predestinato e se ne accorgono gli osservatori del Milan. Però Agostino è troppo piccolo per andare via da Roma, i genitori dicono di no, però evidentemente il Milan sarebbe stato, era già nel suo destino. Intanto ottiene un posto nel vivaio della Roma, cresce in un ambiente amico e debutta in Serie A pochi giorni dopo il suo 18° compleanno. Lidholm l'ho visto giocare nelle giovanili, ha appena vinto Coppa Italia e Scudetto, a fine campionato tutti festeggiano insieme all'allenatore e ai dirigenti della prima squadra. E nel libro L'ultima partita di Bianconi e Salerno, il libro dedicato a Agostino Di Bartolomei, il barone Lidholm ne parla così. Alla fine della cena, Agostino si alzò e fece un discorso per ringraziare tutti i compagni, il presidente Anzalone e tutti noi che eravamo andati a vedere la finale. Parlò con grande disinvoltura, mostrando un'esperienza e una maturità non comuni per un ragazzo così giovane. Io ascoltai con attenzione e dentro di me pensai: questo è un vero capitano. Di Bartolomei, Diba come lo chiamano tutti, inizia a giocare come ala, però ci si rende conto subito che lui è uno di quelli che devono stare in mezzo al campo, organizzare il gioco, smistare palloni, servire assist, fare da cerniera, come si diceva, dettare i tempi della squadra, perché lui non è un giocatore veloce, però ha potenza e ha un grande controllo di palla e difficilmente il pallone lo perde dai piedi. Inoltre ha un tiro potentissimo, uno di quelli che se sei in barriera puoi farti anche male. Lasciamo verde ste chiacchiere, cerchiamo a butta giù sto muro. O sape butta giù quel muro chi ci vorrebbe? Ci vorrebbe Di Bartolomei. E chi è? Il bomber della Roma. Quello te pia la palla, te la mette per terra, te pia la mira, gli tira una cannonata e te spunna la parete. Li portacci tua, ma che ci hanno messo il piombo qua dentro? Eh sì, Bombolo lo dice in uno dei suoi film, perché il tiro di Di Bartolomei è un marchio di fabbrica, non è l'unica caratteristica che lo rende un campione, perché lui sa usare la testa a differenza di molti suoi colleghi, è uno che ragiona, anticipa i movimenti dell'avversario perché intuisce prima degli altri dove andrà a finire il pallone, così anche se non è velocissimo in realtà fa dell'intelligenza il suo modo per arrivare prima. E nel periodo che va dal 72 al 76 gioca nella Roma e nel Vicenza di Scopigno, dove probabilmente lo ha scoperto il nostro amico Gianfranco Barco. Poi nel 77, maturo, torna a Roma e Lidholm lo fa crescere, lo fa diventare il padrone assoluto del centrocampo. Il falco e il gabbiano. E per il giovane Agostino Di Bartolomei, Nils Lidholm rappresenta molto più di un semplice allenatore. E molti calciatori di cui abbiamo raccontato hanno spesso trovato nel loro allenatore una figura paterna, una figura che più o meno magari a loro mancava, però in questo caso c'è qualcosa di più, perché Di Bartolomei è un ragazzo diverso dalla maggior parte dei suoi compagni, è molto maturo, è istruito, gli piace studiare, approfondire le cose e, cosa non comune per un calciatore, si interessa di arte, di letteratura, e quindi trova in Lidholm un interlocutore, perché anche Lidholm è molto colto. Mourinho diceva: chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio. Lidholm è un uomo con cui si può parlare, ci si può confrontare, mentre i compagni magari sono interessati ad argomenti più frivoli. Diba è un ragazzo che ha 20 anni solo nel fisico, perché la sua mente è più matura, e lo ricordano anche i suoi compagni di squadra come il portiere Franco Tancredi. Per esempio, quando andavamo in Olanda, Amsterdam, così mi portavano per musei e vedevo la loro simbiosi, la loro passione per l'arte. E Lidholm lavora sulla squadra, ha un disegno ben preciso: imporre un nuovo modo di giocare a calcio, basato sulla difesa a zona, come facevano gli olandesi e i brasiliani. Un calcio spettacolare, però definito in modo quasi scientifico, punti di riferimento all'interno della squadra che organizzano tutto il gioco. Uno di questi punti fermi diventa lui il capitano, Agostino Di Bartolomei, il primo capitano romano della Roma da tanti anni. È cresciuto nel vivaio, è impossibile per i tifosi non prenderlo come bandiera di una squadra che tra l'altro comincia a ottenere ottimi risultati. Secondo me, a mio avviso, uno dei più grandi, se non altro il più grande allenatore che c'è nel mondo, anche perché in una nazione difficile come quella italiana ha saputo imporre con 2 anni di anticipo un gioco che oggi tutti quanti consacrano come quello che veramente dà spettacolo, veramente fa divertire il pubblico, veramente fa risultato. E lui è l'uomo in più di questa Roma. La sua posizione si divide tra centrocampo e difesa, perché accanto a lui ci sono dei difensori niente male, Nela a destra, Maldera a sinistra e al centro Pietro Wierchwood, e poi c'è Falcao che dirige il centrocampo un po' più avanti, qualche metro più avanti di Bartolomei, e poi ci sono Ancelotti, Proasca, Conti, Iorio, il centravanti è Pruzzo, e poi in panchina c'è gente come Nappi, Chierico, Righetti, insomma Tancredi in porta, una squadra forte in ogni reparto. Lui spesso si scambia con Wierchwood perché è un difensore forte però anche agile e veloce, magari Wierchwood si sgancia e Di Bartolomei lo aspetta, lo va a coprire. Così la Roma attacca sempre, anche spesso un uomo in più dell'avversario, questo fa la differenza. E la fantastica cavalcata del campionato 82-83 si conclude con una vittoria e uno scudetto che la città di Roma aspetta da 41 anni, un'esplosione di gioia che colpisce, interessa una città intera, il cuore di Roma torna a battere forte sui cieli romani. C'è una partita fondamentale nella corsa allo scudetto, quella di Pisa, 13 marzo 83, siamo nel girone del ritorno. Una settimana prima la Roma ha perso in casa con la Juve, è avversario diretto, la Juve sta rimontando, un'altra sconfitta e la Juventus verrebbe rilanciata definitivamente verso un finale di campionato in cui probabilmente sarebbero venute fuori le paure di non riuscire a centrare il traguardo, la nichefobia. Ecco, Di Bartolomei, da buon capitano, incita tutti i suoi compagni per tutta la settimana. Dice: a Pisa segno io, a Pisa si vince. La squadra è rassicurata dalla sua certezza. Così a Pisa quella domenica, al 15° del secondo tempo, Di Bartolomei tira una punizione, è una sassata delle sue. La Roma vince con quel gol 2-1 e scaccia i fantasmi. È aumentato il vantaggio sulle dirette avversarie. Io penso che questo non è un campionato che la Roma non può vincere o può perdere, è il campionato della Roma. Ma comunque speriamo che, come dici tu, lo sia fino in fondo, ma ci vuole tanta abnegazione ancora e tanta umiltà. Fa impressione sentire un calciatore che tra l'altro a fine partita usa una parola come abnegazione. Credo che, non so, Balotelli per dire, non credo che sappia che cos'è l'abnegazione, però Di Bartolomei è fatto così. Lui, che per molto tempo è stato indeciso se fare il calciatore o se studiare giurisprudenza per diventare avvocato, sembra lontano anni luce dallo stereotipo del giocatore ignorante, sgrammaticato, grossolano, che risponde per frasi fatte. Questa sua serietà lo rende un uomo dal carattere difficile da interpretare. A volte il suo atteggiamento può sembrare presuntuoso, questo sarà un problema che avrà conseguenze devastanti dopo il suo ritiro, quando i riflettori andranno a spegnersi. La conquista dello scudetto comunque è merito di una grande squadra, ma soprattutto degli uomini che la compongono. Di Bartolomei ne è il capitano, è un leader indiscusso, inamovibile, che è entrato nel cuore dei tifosi. Di Bartolomei, un'invasione, un successo, un'apoteosi. Io penso che tu debba tirare le somme di questo scudetto. Ma le somme sono che la Roma in 3-4 campionati è la squadra che è stata più in testa di tutti quanti, la squadra che ha espresso in 3 campionati il miglior gioco, ha colto lo scudetto forse nel suo anno migliore, quando c'è stata una sintesi un po' di tutte le cose. Ovviamente c'è grande entusiasmo per una città che arriva di nuovo a questo titolo dopo 41 anni. E viene raggiunto il primo obiettivo. E poi c'è la Coppa dei Campioni l'anno dopo, e in quegli anni alla Coppa dei Campioni va solo chi ha vinto lo scudetto, ricordiamolo, quindi è proprio la Coppa dei Campioni. Inizia il percorso della Roma campione d'Italia, che vuole arrivare alla finale, vuole giocarsela fino in fondo, anche perché quell'anno la città designata per la finale è proprio Roma, e la finale si terrà il 30 maggio 1984. Sembra veramente una favola già scritta, di cui manca solo il finale, un lieto fine sperato che si trasformerà in un incubo per una città intera, per i giocatori della Roma, a cominciare proprio da lui, da Agostino Di Bartolomei. Il Falco del Gabbiano. Stiamo raccontando la vita del capitano della Roma, campione d'Italia 1983, Agostino Di Bartolomei, e lo facciamo grazie a Gianfranco Barco, il nostro ascoltatore, che ci ha chiesto di raccontare la sua storia. Stiamo raccontando la vita e purtroppo ci stiamo avvicinando a questo assurdo finale. Siamo nell'84, un anno dopo che la Roma ha vinto lo scudetto, un'attesa durata 41 anni, e la Roma di Lidl, capitanata proprio da lui, da Agostino, affronta all'Olimpico in finale gli inglesi del Liverpool, una delle squadre più forti al mondo. Il 30 maggio una città intera si paralizza e si stringe attorno ai suoi giocatori. La partita a fasi alterne, rimane sullo 0-0 fino alla fine dei supplementari, a decidere saranno i rigori, e ai rigori nel Liverpool c'è un personaggio particolare, si chiama Grobelaar, è un portiere istrionico, pittoresco, che comincia a muoversi tra i pali, comincia a innervosire i giocatori della Roma. Poi cominciano i rigori e il primo rigore lo tira lui, il capitano Di Bartolomei. Non sbaglia, vince la grande emozione, ma non accade la stessa cosa a Conti e poi anche a Graziani, che tireranno fuori il loro rigore. Il Liverpool ha 3 gol, la Roma 2 soli, scheggia la traversa Graziani. Se ora il Liverpool segnerà, sarà inutile che la Roma vada al tiro, avrà conquistato la sua 4ª Coppa dei Campioni. Ci prova Kennedy e il Liverpool conquista la sua 4ª Coppa dei Campioni. E la peggiore sconfitta di tutte è perdere ai rigori, decreta un vincitore tra due squadre che non sono state capaci di superare l'avversario. Poi perdere allo Stadio Olimpico in casa propria davanti ai propri tifosi amplifica ancora di più questo dolore. Di Bartolomei è il capitano, si sente su di sé tutto il peso della sconfitta, e nessuno è capace di colpevolizzare la squadra, perché si dà la colpa alla sfortuna, però nell'animo chiuso, introverso del Diba inizia a crescere un senso di disagio, un malessere silenzioso che lentamente scava una tana nel cuore del capitano e ci rimane per tutto il resto della sua vita. L'ultimo appuntamento è la finale di Coppa Italia, la Roma è in finale col Verona, 1-1 all'andata, 1-0 per la Roma al ritorno, Coppa Italia vinta, però quando hai appena perso una Coppa dei Campioni in quel modo, la Coppa Italia è una consolazione troppo magra. E intanto ci sono notizie di calciomercato che rendono l'ambiente ancora più malinconico, perché Lidl firma col Milan e si porta a Milano il suo pupillo Agostino Di Bartolomei, il capitano, quello che mai e poi mai si pensava che avrebbe potuto tradire, abbandonare il cuore giallorosso. E sugli spalti i tifosi espongono uno striscione: ti hanno tolto la Roma, non la tua curva. Secondo me è stato un fatto più tecnico che di rapporti con la società, con la squadra, perché è arrivato un altro tecnico che vedeva il calcio in un modo diverso, che era Sven-Goran Eriksson. Eh sì, lo sottolinea anche Tancredi, il portiere, quello che vede giocare gli altri e capisce molte più cose perché segue l'azione da dietro. Eriksson è un allenatore che basa il suo gioco su altri valori, sul pressing, sulla velocità, quindi è difficile per un giocatore come Di Bartolomei, da sempre considerato anche esageratamente lento, dico esageratamente perché non era poi così lento come hanno scritto in seguito, comunque era molto lontano dagli schemi dello svedese, era difficile per lui trovare un posto da titolare in quella Roma. Poi forse c'è anche qualche incomprensione col presidente Viola, e lui paga ancora forse questo suo modo di fare così serio, che può sembrare presuntuoso, che gli chiude le porte della dirigenza romana. È un uomo che non va a chiedere favori e quindi a malincuore lui lascia la sua città e va al Milan, e ci rimane tre stagioni e fa molto bene. Peraltro nella prima sfida tra Milan e Roma lui segna il gol della vittoria, gioisce, butta fuori tutta la sua rabbia contro una dirigenza che gli ha chiuso la porta in faccia, e oltretutto insomma non erano anni in cui c'era l'ipocrita abitudine di far finta di essere dispiaciuti quando segnavi. Lui ha segnato ed è contento, non certo per i tifosi della Roma, ma per quelli che lo hanno mandato via, lo hanno costretto a lasciare la sua città, i suoi amici, la sua vita. E noi abbiamo al telefono un ospite, un grandissimo giocatore che ha condiviso la meravigliosa stagione dello scudetto dell'83 della Roma, quello dello scudetto con Agostino Di Bartolomei. Stiamo parlando di Pietro Vierchowod. Buongiorno Pietro. Buongiorno. Buongiorno. E com'era Agostino sul campo, prima come calciatore e poi come persona? Come calciatore com'era? Come calciatore era un grande calciatore, perché aveva anticipato i tempi, anche se lui figurava come difensore, però lui giocava in pratica davanti alla difesa ed era un centrocampista aggiunto, molto bravo nei lanci e soprattutto molto intelligente in campo. Aveva un lancio incredibile, ti metteva la palla a 50 metri sul piede, con Bruno Conti era l'ideale. Certo, ed era un po' una leggenda il fatto che corresse poco, in realtà correva bene, correva quando serviva e dove e come, immagino. Sì, esattamente così, come altri giocatori etichettati come lenti, come non lo era per niente, ma perché lui comunque in campo sapeva dove arrivare la palla, sapeva dove mettere la palla ed era bravo a farsi trovare nel posto giusto. Senti, e come persona, che ricordo hai di Agostino? Per me è stata una bravissima persona, perché anche se io sono stato solamente un anno, però era uno sempre disponibile, soprattutto sì, con i compagni che avevano bisogno, e ha sempre cercato di dare una mano a tutti. Perciò è dispiaciuto molto quando è venuto a mancare per quella faccenda, insomma. E ovviamente, come tutti, tu che l'hai conosciuto, ti sei fatto una domanda, cioè... È così difficile smettere di giocare a pallone? Diciamo, la domanda che io ti faccio da fuori. Non era smettere, forse si è sentito così un po' abbandonato da tutti e magari in un momento di sconforto è andata così. E forse c'entra per lui romano, primo capitano romano della Roma, forse c'entra proprio la partenza da Roma. Lui aveva un po' la lupa tatuata, mi sembra, no? Era uno di quelli che avrebbe preferito fare l'uomo bandiera di una squadra. Ma penso di sì, però è andata in altro modo. Comunque lui aveva dato molto e forse si aspettava qualcosa dalla Roma che non c'è stato in quel periodo. Certo. Pietro Vierchowod, ti ringrazio e complimenti, torneremo a incontrarci sui campi di calcio come abbiamo già fatto. Ciao. Sì, ciao, grazie. Le ultime due stagioni della sua carriera da calciatore di Bartolomei le trascorre nella Salernitana. La moglie Marisa è di Castellabate, così lui si ritira in una forma di esilio forzato. A fine carriera spera di ricevere una telefonata da Roma, vorrebbe entrare a far parte dello staff dirigenziale della società, e se lo meriterebbe, però intanto quella telefonata non arriverà mai. E poi lui, lo abbiamo detto, è troppo orgoglioso per chiedere, per proporsi. E così costruisce un centro sportivo a Castellabate, una scuola calcio per i bambini, per insegnare i valori dello sport, quelli in cui lui ha sempre creduto. Però un progetto che verrà terminato, ma lui non lo vedrà terminato, perché la burocrazia si mette di traverso. Insomma, le cose cominciano a girare nel verso sbagliato. È la mattina del 30 maggio 94, cioè... non una data scelta a caso. 10 anni dopo la sconfitta contro il Liverpool, Agostino prende la sua pistola e si spara un colpo al cuore. E noi abbiamo qua con noi Luca Di Bartolomei. Buongiorno Luca. Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti. Ciao. Senti, innanzitutto tu sei nato nel... 1982, 29 giugno. 82. E quindi, ahimè, tu ti ricordi benissimo, insomma, di quel 30 maggio 94. Immagino, al di là ovviamente del dolore che abbiamo provato tutti in quei momenti, ma lo stupore. Beh sì, lo stupore è stato ovviamente grande. Noi venivamo da una serata molto bella trascorsa con tutta la mia famiglia allargata, con i cugini, e quindi il giorno dopo è stato una vera esplosione di dolore. Certo. E totalmente opposta alle poche ore precedenti. Certo, e quindi anche come dire, le domande che immagino uno è andato avanti a farsi, forse si farà per tutta la vita, le domande sul cos'è stato, perché poi insomma si è appurato che non c'erano né problemi di salute né problemi economici, e quindi domande che uno si ripete, immagino. Sì, sono quelle domande che poi non ti abbandonano mai, ma sono anche quelle domande che ovviamente tutti ti fanno anche soltanto osservandoti e alle quali tu non sai rispondere e che in vero vorresti essere il primo ad avere quelle risposte. E purtroppo ai superstiti di un suicidio si imputano sempre delle richieste che sono i primi a non sapere come esaudire. Certo, sì. Senti, ma voglio spostarmi verso un'area un po' più sorridente, insomma, che tipo era tuo padre? Che era una persona, intanto un calciatore anomalo, perché era colto, parlava bene, però era anche una persona, come dire, con un'immagine piuttosto seria. Com'era invece come padre? Ma Agostino era tanto serio e mi permetto di fargli un complimento dopo 21 anni, tanto professionale nel suo lavoro, certo, quanto in realtà poi era incredibilmente ironico, dissacrante, divertente, profondamente, come posso dire, goliardico nella sua sfera privata. E scherzando una volta, e lo ripeto abbastanza frequentemente, dico che dire di un suicida che era pieno di vita è complesso, sì, però, certo. era così, e forse in questo sta poi anche molto di quello che rispetto alla sua tragedia ha lasciato a noi e alle persone che ne parlano e le persone che gli hanno voluto bene, nel senso che se c'è una delle cose che ho potuto imparare, che abbiamo imparato come famiglia dalla tragedia di Ago, è che la depressione che figlia della frustrazione, che figlia di una persona che a 35-36 anni viene sottratta dal suo lavoro, a quello che ha saputo fare benissimo senza una spiegazione, ecco, quella depressione lì è un male bastardo ed è un male che ti colpisce proprio un secondo dopo che hai smesso di sorridere. E tutte le persone che sembrano fortissime possono cadervi da un momento all'altro. È vero, è vero. Senti Luca, tu pensi che in quegli anni la società AS Roma in qualche modo si è sentita, non voglio dire responsabile, però un pochino qualcuno si è vergognato lì? Io non ne farei un problema di società specifica, io ne farei forse un problema, diciamo, di mondo dello sport certo. E visto che tutto sommato, diciamo, ho la fortuna di essere intervistato da un grandissimo cantante, ne farei anche un problema di mondo dello spettacolo. Dello spettacolo, sì. Nel senso che il mondo dello spettacolo è un mondo in Italia, secondo me, molto meno professionale che all'estero. Incapace anche di valutare da un punto di vista economico quanto la storia di etichette piuttosto che di società sportive, certo, passi anche attraverso quella che è stato il lascito di cantanti, attori, giocatori, certo. hanno dato a queste etichette, a queste squadre, a queste società. In questo senso qui forse il calcio è persino lievemente peggio che altri mondi, perché il calcio italiano ancora non è saputo, ancora oggi a 21 anni dalla scomparsa di Ago, non ha saputo probabilmente ancora professionalizzarsi quanto dovrebbe. Sì. E questo è un peccato, perché lo sport, il calcio, potrebbe essere, dal professionismo fino al dilettantismo, potrebbe essere un gigantesco veicolo, oltre che naturalmente di passioni, di emozioni, di ideali positivi, anche un gigantesco veicolo economico per i ragazzi della mia generazione, oramai anche quelli abbastanza più giovani della mia generazione. Certo. Se ci fosse un filo più di professionismo e se chi ha le leve del potere del calcio sapesse realisticamente, sapesse realmente aprirsi ai giovani, alla loro carica, alla loro voglia e alla professionalità che tanti studi anche universitari certo. stanno oramai formando in Italia. È vero, lo so, e sono, forse hai ragione, è il mondo dello spettacolo in generale, non il mondo del calcio strettamente. Luca, sei stato preziosissimo, e ti mando un grande abbraccio. Un abbraccio a te, un saluto a tutti. Ciao Luca. A presto. Beh, e devo dire che tra le tante cose lasciate da Di Bartolomei c'è un figlio di questo livello intellettuale e umano. Noi abbiamo scelto ogni giorno di raccontare vite straordinarie. Purtroppo a volte le vite straordinarie incappano anche in momenti terribili, a volte in momenti definitivi. Questo nulla toglie all'eleganza in campo e fuori dal campo di un grande uomo e del simbolo di una città, Agostino Di Bartolomei. E noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalarci via mail al falcoilgabbiano@radio24.it oppure nei miei siti altre storie, insomma nei miei siti, nei miei profili, insomma. Ricordate anche che se vi siete persi qualche puntata che vi interessa, c'è sempre il podcast, e noi ci sentiamo domani.